mia ragazza è bella come te. La mia ragazza nei suoi occhi io vedo l'amore sincero che hai per me. Io ti presenterò la mia ragazza, vedrai ti piacerà. La mia ragazza nel mio cuore già sento che è l'unica al mondo che felice mi farà. Le ho parlato di te, lei ti vuole già bene, ti conosce da sempre perché vuol bene a me. Oh mamma, tu non sai, la mia ragazza è bella come te. La mia ragazza nei suoi occhi io vedo l'amore sincero che hai per me. E io ti presenterò la mia ragazza, vedrai ti piacerà. La mia ragazza nel mio cuore.